L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per un'ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Ciao Luciani, sono molto triste perché non riesco a convincere la mia ragazza a mettermi le corna. Ho provato in tutti i modi ma non ci riesco. Sono riuscito a convincerla a mettersi un super tanga a filo quest'estate che andiamo in vacanza a Rodi, ma non riesco a convincerla a mettermi le corna. Come devo fare? Mi aiuti? Mi aiuti? Mi aiuti tu? Beh Luciani, forse se ci parli tu può essere che la convinci. Potresti, non so, potresti essere tu il terzo. Per me sarebbe un onore. Cioè, se la mia ragazza mi facesse le corna con Cruciani, io ne sarei orgoglioso. Comunque, no, sono triste. Ma mi darò da fare, caro amico, mi darò da fare. Cercherò di impegnarmi al massimo per esaudire il tuo desiderio. Se per voi è normale. Oggi sono molto felice, caro Parenzo, sono molto triste per la morte di un amico, un collega esatto, giornalista esatto. Che si chiama Emiliano Liuzzi, su cui poi ho una cosa da dire su un tweet. Lo abbiamo conosciuto tutti e frequentato, sì, per fortuna, abbiamo avuto l'onore di frequentarlo. Però, c'è non si deve dire niente sulla morte di una persona, figuriamoci. Che devi dire? C'è un tweet che è stato scritto dalla nostra amica animalista Daniela Martani, che dopo ti voglio leggere. Cosa c'entra Martani? Amico mio, incredibile dictu. Cioè, nessuno dice niente, c'è un lutto generale. La signora Martani scrive, poi te lo dico. Adesso non è perché ho la fissazione degli animalisti, dei vegani, eccetera, eccetera, ma perché l'ho notato, ha scritto una cosa il signor Liuzzi. Vabbè. No, sono molto felice per uno studio uscito, uno studio inglese uscito. Caro Parenzo, ti colpirà abbastanza che io parlo di questa cosa alle 18.39. Però mi sembra fondamentale. Sentiamo. Mi sembra fondamentale per la nostra età, per l'età che abbiamo, soprattutto per la mia età. Tu ne hai 50. Ne ho quasi 50 a settembre. Tu ne hai appena fatti 40. Dunque, ecco. Siamo praticamente ai 10 anni di differenza, che in realtà non si vedono. Ancora un giovanotto, io in un giovanotto. In realtà non si vedono, non si notano questi 10 anni. Beh, no, amico mio, no, non si vedono. Non io li tengo ancora su. Ma lo dicono tutti che non tu si vedono. Tu sei allo sfascio globale. Ma quale sfascio globale? Perdi pezzi, robe, denti. Ma come che dici? Ma quali denti? La prostata, hai dovuto mettere il catetere. Comunque andiamo avanti. Dai, ma non è vero, ma stai diffamando. Intanto abbiamo detto poco male. Ma con questo studio... Come vegani, poco male. Intanto l'abbiamo detto, poi dopo che voi siete degli assassini che mangiate la carne. Poi vabbè, lasciamo perdere. Ma no, ma scusa, dici delle cose assurde, cioè io cado a pezzi. Che cado a pezzi? Dimostra il contrario. Intanto l'ho detto. Intanto ho diffamato, poi vediamo. Allora, secondo uno studio inglese, eiaculazioni frequenti. Lo so, tumore alla prostata. Ragazzi, non stiamo parlando di sesso. Tumore alla prostata, uno studio inglese dimostra una cosa molto molto seria. Eiaculazioni frequenti possono allontanare il rischio. Questo è il punto. 21 volte al mese abbassa il rischio del 20%. Siamo sempre lì. Vuol dire praticamente... Siamo sempre lì, quasi una volta al giorno. Quasi una volta al giorno. 21 eiaculazioni al mese. Sono le 18.40, capisco. capisco. Però il problema è fondamentale. 18 e 40, 21 eiaculazioni al mese, abbassano il rischio del 20%. A me torna sempre in mente una delle massime espressioni di grillismo di questi tempi, del Beppe Grillo che conosciamo. Ed è questa, cari ascoltatori, ve la propongo subito, perché alla fine resta il problema fondamentale di tutti noi maschi e di conseguenza anche delle femmine. Il punto centrale della vita, dell'umanità, delle giornate, di tutto, resta quello che dice Grillo. La prostata, per curarla, l'unica cosa, scusate la volgarità, bisogna trombare! Io dico che questa qua resta la massima espressione del grillismo. Perché, il leader politico, perché della mette insieme l'analisi della società. L'analisi della società. Cioè il politico che vuole interessarsi dei problemi della gente. No, perché questo si interessa dei problemi della gente e nello stesso tempo offre un grande spaccato di comicità. Sì. Questa cosa qui racchiude il Grillo che politico, comico, sai che adesso lui no, dice che faccio il comico, poi voglio tornare a fare il comico. Come al solito, tutte e due le cose fa. Cedo il marchio, dice che vuole cedere il marchio. La cessione del marchio, Grillo e il marchio, vai. Ma per spazzare via qualsiasi ambiguità, non le converrebbe cedere la proprietà del marchio Movimento 5 Stelle, così tutti capiscono che lei non è più il politico Grillo? Succederà assolutamente, come ho tolto il nome dal simbolo e poi io voglio che il movimento diventi con una sorta di non chiamiamola proprietà, ma di gestione da parte di persone che sono dentro il movimento, che sono nati con me, con Gian Roberto, con tutti. Ma non è che ha ragione il mitico Beccone, no? Il Becchi che diceva che fra poco verrà fuori un documento da notaio con la cessione del marchio, Casaleggio, eccetera, no? Ti lo ricordi quando disse questa Come cosa no? qui da noi? La denuncia di qualche mese fa. Certo, vecchio professore, vabbè, poi chi se ne frega di quello che fanno loro, Basta che si capisce chi è che comanda, no? Appunto. La gente vuole sapere questo. Allora, vi dicevo... della rete. Vi dicevo della Martani. No, prima di cominciare con la Martani, perdonatevi, perché oggi, ma ne parleremo, è stata una giornata straordinaria a Bagnoli. Che è successo, Capanna, che palle. Scontri e feriti al corteo per bloccare Renzi. Meraviglioso vedere quei ragazzi armati di soli bastoni e pietre. Ma no, non è bello. Scagliarsi contro le forze dell'ordine. Ma non è e bello. E impedire a questo cosiddetto presidente del Consiglio prezzolato, pagato dalla cosiddetta Confindustria, schierarsi contro, allontanare dal Bagnoli. Vabbè. Bagnoli e nostra, compagni e compagni, di Katanga all'attacco, hanno messo a ferro e fuoco la città. Ma non è bello? Meraviglioso. Mi è tornato alla mente, quando, lo devi sapere, negli anni 70. Sì. Negli anni 70. I padroni scappavamo alle università. Sì. Bravissimo. Lo hai imparato finalmente. I padroni e i baroni, in questo caso, scappavano come conigli. Sì, Guido ormai Carli, lo so a memoria. Guido Carli. Non si presentava neanche. Noi lo prendevamo a sassate, il signor Guido Carli. Abbiamo capito. Non grazie. Esisteva. La Confindustria non c'era. Vuole staccare. Polverizzata. Scendavamo in piazza. Scappavano come conigli. Non esisteva. Non esisteva. Napoletano, Barisoni, gente che non scappavano come conigli, e noi coi bastoni Katanga all'attacco per la democrazia. Non c'è più questo periodo. Ricordati, Bagnoli insegna scontri e feriti, meraviglioso, formidabili quegli anni. Allora, questo cazzo di collegamento con Capanna ogni volta che si introduce, vogliamo intervenire, mezzi tecnici a disposizione di Confindustria. Si vede, allora, che si è esaltato. Sì, signora Daniela Martani fumava un pacchetto di sigarette al giorno, ed è morto a soli 46 anni. Perché le persone non capiscono che ci si fa del male così? Ora, signora Daniela Martani, cioè questo sciacallaggio sulla morte di un signore è ridicolo. Ma che cazzo ne sai perché è morto? Un pacchetto di sigarette al giorno, cioè, non ce ne importa moltissimo. Non è che stiamo a discutere sui motivi della morte di una persona. Che cazzo ti viene? Che cazzo c'hanno in mente sti vegani? Questa vegana, anzi, vegani in generale. Adesso no. Non so se lo dice. Dai, su. E state zitta, no? Pure sulla morte di uno, dai. Allora, però si discute dell'intervista di questa sera del figlio di Totò Riina a Porta a Porta. Ora, ragazzi, vi rendete conto? Cioè, la RAI ha discusso e poi, per fortuna, ha fatto passare e non ha censurato l'intervista che questa sera andrà in onda Porta a Porta con il figlio del signor Riina. Figlio del signor Riina. Allora, figlio condannato, signor Riina, figlio di Riina, condannato, 8 ma anni. 8 anni per associazione mafiosa, pena interamente, come dire, no? Interamente, come si scontata. Dice? Scontata, bravo. Scontata. E allora, che cazzo vogliono questi qua? La Bindi parla di negazionismo della mafia in onda, Bersani dice che non andrà più a Porta a Porta, Grasso dice che non guarderà Porta a Porta. Ci sia un po' di indignazione, secondo me. Ma quello fa, quello è il principale anchorman della RAI. Sì, no, cioè, ma al di là di ma quello... che cos'è? Non vi fidate di come possa condurre un'intervista con Riina? Ha fatto un'intervista a un protagonista, uno che ha scritto un libro. dietro. Poi bisogna vedere come fa l'intervista. Quello è un altro discorso, poi giudicheremo. Ma perché non si può intervistare il figlio di Rina? Qual è il problema? Le mani sporche di sangue. L'altro, Salvatore Borsellino, pure ha detto: sono, mi viene da vomitare. Beh, però ci sta. Borsellino è il fratello del giudice assassinato nella strage di Via D'Amelio. La Leosini non intervista i mostri. La Leosini intervista i mostri. Quando la Leosini ha intervistato alcuni criminali, quello dell'acido, i parenti, no? quello dell'acido, appunto, la Lucia Annibali e i parenti delle vittime, no, quella ci non sono detto indignati, niente. Non lei. Ma sì, vabbè, ma ragazzi, ma di che parliamo? Dai, su, ha fatto un'intervista a figlio di Rina. Cioè, appunto, la polemica ci sta, questo voglio dire. Quello parla alla RAI, alla trasmissione di Vespa, ed è un protagonista, uno di quelli. Punto e basta. Vespa ha fatto benissimo, non gli rompete i coglioni, dai, su, basta. Ciao Cruciani, sono in diretta da Dubai, ma a me del sole, del divertimento non me ne frega un cazzo. Ascolto solo la Zanzara. Traffico. La Zanzara. Allora, a me sorprende una frase pronunciata dalla Boschi, a porta da Vespa, peraltro, dove va, naturalmente, perché è molto sicura, si trova a suo agio, eccetera, eccetera. Però ognuno sceglie di farsi intervistare da chi vuole, no? Da questo punto di vista non c'è questione. La Boschi dice: io non conoscevo, non sapevo che la Guidi avesse un fidanzato, e soprattutto che il fidanzato della Guidi avesse interessi nel settore. Adesso, ragazzi, però, veramente va bene tutto, anche la menzogna fa parte del potere, per carità, però che uno che è praticamente il simbolo del governo, perché la Boschi è al centro di tutto, qualcuno addirittura dice che è una specie di faccendiere, no? Chi le vuole male sostiene che è una specie di, cioè, è quella delegata da Renzi a fare un sacco di robe. Che non conosca il fatto che il fidanzato, praticamente il marito, poi successivamente scaricato, della signora Guidi, questo francamente lavora nel settore petrolifero, e dai, come direbbe il mugolo, dai. Lei sapeva che l'ingegner Gemelli, il fidanzato della Guidi, aveva interessi in questo settore? No, sinceramente no, perché non l'ho mai conosciuto. Voglio sentire il parere di Vittorio Sgarbi sulla questione del figlio di Rina porta a porta, e quello che ha detto la Bindi. Vediamo un po' se lo becchiamo. Vai col telefono. Pronto? Eccoci, Vittorio. Eccolo. Come andiamo? Benissimo. Hai saputo che c'è tutta questa polemica per l'intervista di stasera di Vespa al figlio di Rina, no? Tu che pensi? Sì. Chi ha ragione, Vespa o quelli come la Bindi che dicono che praticamente la negazionista... Io considero la Bindi un esponente organizzata della mafia. No. Non ho nessuna... Non posso parlare con lei. Ma... Una che ha fatto la cosa immonda di usare il suo potere contro De Luca, che oggi è stato scagionato, non è un deputato, è un mafioso. Il suo comportamento mafioso è peggio di qualunque altro. Usare il proprio potere, essere l'antimafia, accusare uno che non ha fatto niente e metterlo insieme alla lista è un abuso di potere tipico del rapporto che un tempo c'era fra la politica e la mafia. È un abuso intollerabile. Non deve essere cacciato dal Parlamento. E dunque quello che dice è senza logica e fondamento. Non ha alcuna competenza di mafia. Se messa in mezzo, puoi fare una lista di gente impresentabile per qualunque ragione che riguardi i comportamenti, non so, rispetto all'amministrazione, ma se sei il commissario, il presidente dell'antimafia, sì, metti come primo De Luca, vuol dire che dici che è mafioso. No! E dunque atteggiamento è tipicamente mafioso. E dunque, vabbè, questo che però che c'è, vabbè, lascia perdere questa cosa qua. Lei non ha competenza per dire se deve andare all'intervista o no. Ha la competenza di tacere. L'unica competenza che ha, cioè non è che può parlare di una materia in cui ha già dimostrato di fare cose immonde e contro lo Stato, contro le istituzioni, in nome di una nonna che le hanno dato come una regalia, perché non c'era alcuna ragione al mondo, se non della corruzione della politica, potessero diventare questa qui presidente dell'antimafia. Non c'era nessun titolo. Una signora nata non si capisce dove, in Toscana, commissaria del Veneto, che diventa capo dell'antimafia. Ma dove? Perché? Con cosa? Con quali titoli? Con quale esperienza? Verificare come mafioso De Luca, si vergogna, si deve vergognare. Però capito, tu la stai accostando alla mafia, Vittorio. Certo, la accosto alla mafia, perché ma come certo? Utilizzare e abusare del proprio potere per avere un vantaggio, è quello che ha fatto lei. Tu usi un sì. Cos'è la mafia? È abuso di potere, è prepotenza. Lei ha un comportamento tipicamente mafioso di chi abusa del proprio potere politico per accusare uno che non ha fatto niente. Dunque, in questo caso doveva stare zitta. Lei è dello stesso partito di San Cimino, la Democrazia Cristiana, stesso partito. Questo signore è stato arrestato solo per esiste, figlio. Non è che uno deve pagare perché è figlio, vuole sapere quali reati ha fatto. No, credo l'associazione ha preso 8 anni. Ha preso 8 anni. Se l'hanno condannato, qualcosa ha fatto, però. Un mafioso che ha preso 8 anni. Che mafioso è? È un turista della mafia, uno che è un mafioso prende il gatto. Beh, sono sta a noi giudicarlo, però, perché l'hanno condannato. Se l'hanno condannato, ci saranno gli estremi. In linea generale è stato condannato per colpa del suo nome, io credo. Però ammesso che abbiano delle prove che io non conosco, è libero. E quello che la prigione serve è a rendere le persone degne di tornare nella società. Non è che tu metti in galera uno per emarginato, ma per riabilitarlo. È stato riabilitato, taccia la Bindi e vada in galera lei. Grasso dice, per esempio, che lui non guarderà porta a porta perché Rina ha le mani sporche di sangue, signor Grasso. Le ha il padre, semmai, e non il figlio. Quindi non dica cose senza senso e ragione e rispetto della legge. La frase di Grasso è senza logica, perché le mani non hanno dimostrato che Rina Junior ha ucciso. Ma ha ucciso il padre. Sì. Le mani del padre sono lorde di sangue. Vorrebbe dire che il figlio di Caino è colpevole delle colpe di Caino. Il figlio di Pripke non può parlare in televisione. Il figlio, la nipote di Mussolini parla in televisione. Quanta gente ha fatto morire Mussolini? Allora non deve parlare neanche perché nipote... Questo è vero pure, questo è vero. Beh, ma qui è un po' diverso però, perché la persona... È un autorevole leader politico, che non piace magari al nostro... Ma non è che non parla. Cioè, no, questo c'ha in più che è stato condannato appunto, e in più ha il fatto che non vuole parlare delle vittime. Dice, non sta a me parlare delle vittime. Cioè, non vuole chiedere perdono per suo padre, questo è il punto. Ma nessuno chiede perdono per suo padre. Ti risulta che, non so, deve chiedere perdono per Caino o il figlio di Caino per suo padre? No, è vero, non è che si può obbligare il figlio a chiedere perdono. Per... si può chiedere, appunto. Soprattutto folle. Io non so cosa dire. Ma l'ultima persona che deve parlare è la Bindi, che ha abusato del suo potere per un innocente come impresentabile. Anche Salvatore Borsellino ha detto Ola nausea, anche lui è mafioso. È legittimo, è figlio del giudice. Vabbè, ho capito, non è che decide lui. È legittimo lui. Che i parenti sentano... Così, i parenti, Salvatore Borsellino... Dico, ha detto queste cose inaudite di Napolitano, non stai ancora scusato. Avevano detto questi. Sì, è vero, è vero. Che aveva detto che il garante della trattativa Stato Mafia era Napolitano. Si vergogna! Che è successo? È caduta la linea? Mamma mia! Mamma mia, ha detto delle cose sulla Bindi tremende. Ma sì, ma non si può dire una roba simile. Esponente della mafia, ha detto. Esponente organizzata della mafia. Ma sì, i soliti paradossi. Sulla, cioè, Bindi che è presidente dell'antimafia. Sì, che ha semplicemente fatto notare che è una cosa disdicevole per lei che il servizio pubblico faccia un'intervista al figlio del mafioso, lui stesso condannato per mafia. Ha detto una cosa, ha detto che è la legalità, che ha detto la, come si dice, il negazionismo della mafia, eccetera, eccetera. Comunque, se lui ha detto Sgarbi, si assume la responsabilità di quello che dice, perché qui sennò non è che ci possiamo pure beccare una guerra al giorno noi, cioè non è che possiamo, altrimenti no, il portafoglio qui. No, comincerebbe a piangere Parenzo, comincerebbe a piangere. Io non tiro fuori una lira. E quindi... chi tira fuori un euro? Mai tirato fuori un euro. Non so. Mai tirato fuori un euro. Paghi tu. Cari amici, ci state chiamando sulla questione della prostata, lo sapevo, 21 al mese vi salvate, a dopo. Che mondo sarebbe senza la zanzara? Amore, in quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da... Scegli Pantera col TH. Scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. La Zanzara. Uè animali, sono qui a Cortina. Sole, whisky, zanzara e sei in pole position. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora, voglio citare solamente un'azienda, caro Parenzo, senza fare pubblicità, ma in realtà poi la faccio. Se volete fare la rivoluzione, chiamate l'800240024, Radio Capanna. Siamo pronti a intervenire, ci chiamate, prendiamo i katanga, le spranghe scapperanno come conigli. 800240024. Cioè, se volete andare a distruggere un'azienda, dici, se volete mettere a soqquadro un... Se volete occupare, fare gatto selvaggio, scioperi selvaggi in cui non si muove più niente, tutto rimane bloccato. Se volete boicottare la vostra azienda, da sabotare il vostro padrone di lavoro, datore di lavoro che si chiama il padrone, chiamate l'800240024 Radio Capanna. Allora, voglio ringraziare, mi hanno scritto una bellissima mail, la Lem Carni, caro Parenzo, a nome dei 60 dipendenti, 130 agenti e 3.000 clienti, una mail molto breve, molto secca, quello che ci vuole. 60 dipendenti, 130 agenti e 3.000 clienti ristoratori di questa azienda che ho già nominato, adesso non rinomino per la seconda volta, noi ti diciamo siamo tutti con te, non mollare sul viva la carne con tanto di foto, siamo con te. E ho ricevuto decine e decine di mail di questo tipo, caro Parenzo, decine e decine di mail. Addirittura dovrei proporre un montaggio con la mia faccia al posto della Statua della Libertà, con un salame in mano, invece della torcia con un salame in mano. Mi perché il salame... No, no, non c'è niente di eccessivo, non c'è niente di eccessivo. Il salame è diventato il simbolo della libertà di alimentazione. Ognuno mangia il cazzo che vuole. E a questo proposito, non voglio dedicare assolutamente questa puntata di nuovo al tema dei vegani e della carne, però una piccola cosa la voglio mandare in onda, ed è lo straordinario Emanuele Vaccarini. Adesso tu, Parenzo, dirai chi cazzo è sto Emanuele Vaccarini. Beh, ci stavo per dirlo. Ma tu non conosci internet, non frequenti il mondo di YouTube, non frequenti il mondo del web, non sai i personaggi che escono fuori. Questo signor Vaccarini credo che sia un culturista, comunque sembra un culturista, uno molto muscoloso, eccetera eccetera, uno che parla in maniera molto diretta, anche in maniera rude, parla diciamo in romanesco. Senti cosa dice, fa riferimento tra l'altro alla nostra contesa, no, al nostro duello, chiamiamolo così, con com'è che si chiama quell'altro Vaccaro, come si chiama, no, Vassallo, Vaccaro, Vassallo, Vassallo. Vassallo. Poi mi hanno mandato un altro video di un animalista vegano che predicano tanto il di non uccidere, e poi ha detto delle cose, un certo, non mi ricordo, che si è attaccato anche con un coso radiofonico, gli sono entrati dentro lo studio, volevo nominare, ma com'è, volete predicare bene per contro animali e poi dopo razzolate male, perché poi volete menare la gente. Dice veramente, uno lo fa come cazzo che pare nella vita tua, perché tu, caro vegano, tu devo mangiare tutta l'erba di sto mondo, ma tu mica mi devi romper cazzo a me se io non mangio la carne. Hai detto che se te vivi per strada uno che si mangia un panino con la porchetta gli c'è sputi dentro, o se trovi una signora con la pelliccia gli dai fuoco? Allora tu sei un violento del cazzo, e vieni a casa da gente. Allora facciamo una bella cosa, guarda che te faccio, te faccio io. Questo è carpaccio del bovino adulto, carne. Adesso faccia da merda, vieni a cerco a casa, capito? L'aspetto sotto casa mia, poi te faccio vedere a chi dai fuoco. Ognuno è libero di fare quello che cazzo gli pare. Te mangiate l'erba e non romper cazzo a noi che se mangiamo la carne. Oh, in sostanza, chi nell'editoriale è intellettuale, cresciuto alla scuola di Einaudi. Esatto, nell'editoriale qui? Della Zanzara di Emanuele Vaccarini viene spiegato in maniera molto comprensibile per tutti, diciamo, per tutti, quello che è un grande principio di libertà. Signor Vaccarini ha reso in questo magnifico editoriale per la Zanzara, a livello, possiamo dire, di Galli della Loggia, a livello di Pane Bianco, a livello di Flores d'Arcais, ha spiegato che non c'è un pezzo del caso. Noi mangiamo la carne, loro mangiassero l'erba e va bene così. Intanto Riccardo, provincia di Chieti, vai. Pronto? Dimmi Riccardo, dimmi. Allora, grazie per avermi chiamato. Volevo commentare il fatto che diciamo, ha creato scandalo nella mente di qualcuno, tipo il Presidente del Senato e altri, sì, il fatto che il figlio di Regina va a parlare. Ma queste stesse persone non si sono scandalizzate quando Renato Curcio, Franceschini, Mario Moretti sono andati in televisione alle interviste, addirittura alle università, addirittura hanno scritto libri, queste persone si sono fatti i soldi spiegando agli italiani come hanno fatto soldi. Sì, guarda, è più o meno la stessa cosa. La polemica ci sta, è giusto, lei ha ragione, ma insomma è più o meno la stessa cosa. È più o meno la stessa cosa. È evidente, la mafia colpisce più, diciamo. Franceschini poi è un pentito comunque delle esperienze. Chi se ne frega. Non c'è, ma è, comunque, è certo, la stessa c'è cosa. Come fate? Sì, sì, va bene. Cosa. Solo che sta gente non si scandalizza. Perché? Perché? Chiedo, tu per darmi una risposta. No, ma è diverso, la mafia ha un impatto sociale diverso, esatto, rispetto, esatto, al terrorismo, su questo non c'è, esatto, dubbio. L'immaginario Rina, il nome di Rina, colpisce più di quello di un terrorista qualsiasi, questo mi sembra evidente. Ma comunque lo stesso è uguale. Ma in questo caso, tra l'altro, è uno condannato a 8 anni, non è manco lui, Totò Riina, che uno invece dovrebbe intervistare, se fosse possibile intervistarlo, per carità. Ciao Riccardo, Romolo Ravenna, Romolo. Sì, buonasera. Dimmi Romolo. Sì, io sono il figlio di una vittima della mafia e quindi... Scusi, figlio di una vittima in che senso? Ci può dire chi? Non ha importanza. Beh no, è importante. È importante, ma non parlo a nome di figlio, di padre. Mio padre era un militare che ha perso la vita. Ok, in un attentato? Esattamente, della mafia. In un attentato allora, della in base mafia. A questo, ma siccome la mafia non è che abbia fatto tanti attentati, è evidente che si tratta Vabbè, di... Che se non vuole dire... No, per carità, non la voglio dire, estorcere... Non è fondamentale. No, ma siccome non è un segreto, immagino, no. Ma non ha importanza l'identità, sa quante vittime di mafia ci sono in Italia, magari non eclatanti, di grandi attentati, ci sono molte. Allora, il punto è questo. Si può dire che mio padre ha dato la vita per il paese. Assolutamente, assolutamente. Ecco, benissimo. Questo paese ha una TV pubblica, che in orario di grande ascolto e con grande battage pubblicitario decide di intervistare un personaggio che è stato condannato, mi sembra, per associazione mafiosa. Sì, perché sì, essere sì. associati alla mafia significa non avere le mani sporche di sangue. È questione no, è uguale. È benissimo, siamo d'accordo su questo. Allora, ha le mani sporche di sangue, perché uno benissimo. Condannato per associazione allora, mafiosa sapeva cos'è la mafia, insomma, no? Allora, chiudo e mi permetto di dire questo. Ciascuno fa il lavoro che crede, nella maniera in cui crede. Ritengo che Vespa sia ormai un sarcofago che ha fatto del giornalismo quello che fanno i vivisezionisti con le carni degli animali in cui fanno esperimenti, perché questo non è servizio pubblico, ma è servizio pubblico ai danni della memoria e del rispetto delle persone che hanno pagato con la vita. E dico infine questo. No, però scusi, Romolo. Concludo. No, però scusami, Romolo. Sì, dimmi. Concludo. Che se il servizio pubblico, per cui la pensione di mia madre viene decurtata o per cui dobbiamo pagare adesso a luglio anche, è questo... Io credo che sia una cosa di cui ci dobbiamo un po' vergognare. A me se Vespa lo fa in una TV privata, a mezzanotte tra gli annunci di quelli dei telefoni erotici, dove forse sarebbe meglio, a me andrebbe bene. Ma è stato chiamato qualcuno dell'associazione dei vittimi? È stato chiesto un parere di opportunità? Mi sembra che ci siano, sì, in studio. Se non ricordo, però se non adesso ho letto io male, non lo so come funzionerà questa sera durante l'intervista al figlio registrata. Detto, mi sembra di aver capito che ci sono. Al figlio di Rina. Però, Romolo, siccome tu hai detto Vespa dovrebbe trasmettere de notte tra un film, tra una telefonata erotica e l'altra. Vespa è un... È un'opinione. No, un'opinione, per carità, va benissimo. Allora, però, a questo punto mi devi dire anche il nome di tuo padre, perché il cognome di tuo padre, perché qui ci sono, ma no, ma io non lo dico apposta, perché tu ti sei presentato in questo modo, sono il parente di una persona che è morta. Esatto. Ma siccome non voglio fare esattamente giocare al gioco. Ma no, ma però ti sei presentato come figlio di vittima della mafia. Sono presentato e lo so io di essere, ma quello che voglio dirle è questo. Se non voglio giocare allo stesso gioco, perché se io rivelo il nome poi entra in meccanismo il nome, chi è stato, quando è stato, non è importante. No, questo, no, ma semplicemente il gioco di Vespa che sta perdendo ascolti, ma non è adesso questo qua, però è un'altra questione, no, Romolo, scusami, è la stessa questione. Io francamente devo dire con grande rispetto, pur comprendendo la tua rabbia eccetera eccetera per questa cosa, rabbia, hai detto delle cose per cui sarà disgusto. Bene, allora, pur comprendendo il disgusto e non essendo d'accordo d'accordo con alcuni giudizi che ha dato su Vespa, ma questo non è interessante. Io invece penso che un giornalista, anche nella televisione pubblica, abbia la possibilità e il diritto di intervistare un mostro, che in questo caso, tra l'altro, non è nemmeno un mostro, è un piccolo mostro, diciamo, il figlio di un mostro, non so come definirlo, uno che ha fatto 8 anni di carcere, li ha scontati più o meno, adesso poi il dettaglio non lo conosco bene, adesso lavora, ha fatto un libro, poi bisogna vedere come è condotta l'intervista. A me la critica preventiva non mi piace mai, magari questo qua è stato zitto di fronte a qualche domanda, Vespa non gli ha detto niente, intorno non credo che abbia fatto l'elogio di Rina, insomma Romolo, capito? No, io sono d'accordo, lei oggi ha fatto un inserto di Vespa che intervista la Boschi, dove non dà sfoggio di grande spirito critico, perché che la Boschi dica di non sapere con chi usciva il ministro Guidi fa sorridere, lo ha detto lei. Sì, secondo me sì, sì, io avrei detto, esatto, fossi stato Vespa, avrei detto scusi, ma non è credibile il fatto che lei non conosca il fidanzato, e che non conosca il fidanzato, sì, ma che non sappia che il fidanzato barra marito abbia interessi assurdo, nel mondo del petrolio. Questo mi sembra francamente, è peggio se non lo sai, non so come dire, è peggio se non lo sai. Questa considerazione credo che Vespa non l'abbia fatta, però io sono convinto, Romolo, che lei debba dire il cognome, ma semplicemente per una questione quasi di chiarezza, perché no, ma siamo d'accordo, e le dico, allora facciamo così, guardi, siamo perfettamente d'accordo, e siccome non mi piace, giustamente, come ha detto lei, fare critica preventiva, aspettiamo questa intervista, e perché una volta fatta l'intervista, nel momento in cui magari sfoggerà il conduttore e lo stesso spirito critico, magari il suo disgusto si trasformerà in qualcos'altro, però lei dovrebbe dire, allora, come lei dovrebbe dire il suo cognome, dovrebbe dire il suo cognome. Allora aspettiamo l'intervista, le prometto che le cose ci risentiamo, va bene? Grazie, arrivederci, arrivederci. Zanzare Uakbar, Zanzare Uakbar. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my heel. Ricordati Cruciani, come diceva un vostro ascoltatore, alla mosca che sbatte le ali, tu li devi baciare il culo. Allora, la notizia esce dal sito dell'Espresso, caro Parenzo, nella vicenda dei Panama Papers, che sono queste carte che rivelano conti offshore di mezzo mondo, c'è bello anche... questo è molto bello, perché il re è nudo, amico mio. Belle queste fughe di notizie, spiegami. Vuol dire che i capi di Stato e di Governo non sono più al sicuro, predicano bene nel loro paese l'austerità e poi nascondono i loro tesoretti nei paradisi fiscali. Ora sono, tutti, detto mica alcuni, tutti, quelli citati nelle carte, ora sono, detto con il massimo rispetto, fottuti. Vabbè, fottuti, capito, da un gruppo alcuni, di fottuti da un gruppo di giornalisti che si sono messi insieme e che hanno pubblicato le carte. Vabbè, ma non è che, coi nomi. Attenzione, non è che fottuti, ma chi, fottuti. Di chi stai parlando? Allora è bellissimo vedere quella gente, no, questo sono stato demoniato, vedere quella gente in piazza in Islanda, ad esempio, e il capo di Stato scappava come un coniglio, si è dimesso, scappava come un coniglio. Meraviglioso, perché questi praticano austerità, austerità, austerità, e poi sacrifici, cerca di spiegare a un pubblico normale, no? Austerità, sacrifici, sacrifici, e poi sacrifici, sacrifici, e poi nascondono i loro tesoretti all'estero, però, nei paradisi fiscali. La novità di stasera è che ci sarebbe il nome di Barbara D'Urso. Vabbè, questo io non ho. Beh, no, ma adesso, perché non ho capito, bisogna dire le cose. Secondo l'Espresso. Non si sente, non c'è audio. No, ma che vuol dire? Amica mia, Barbara, no, ma che vuol dire? Secondo visto. L'Espresso, adesso lo guardo, in edicola da venerdì, in cui verranno rivelati 100 nomi di italiani coinvolti. 100 ma erano 800. Nomi. Ma che cazzo? No, 100 nomi di italiani coinvolti. Tra questi ci sarebbe anche la presentatrice delle trasmissioni Mediaset, la signora Barbara D'Urso, tra le persone che avrebbero dei conti all'estero, a Panama. Conti all'estero, a Panama. Bah, tu dove hai il conto? No, guarda, io conti all'estero, a Panama non ce li posso avere, ma nemmeno vabbè, né a Panama, eccetera. Vabbè, però un controllino glielo farei fare comunque. Ma che cazzo c'è? Io non c'ho intanto... Ma tutti questi soldi non ce l'ho io. Vabbè, però intanto, no, nel dubbio, io un controllino, no? Allora, sulla questione dei Panama Papers, cioè delle carte segrete sui conti a Panama. No, sui conti a Panama. C'è il nostro amico Giulietto Chiesa. No, che sostiene, tuo amico, che sostiene, e che sta di che è quello che ti dà, che ti ha dato una volta, che cos'è che ti ha dato? Non mi ricordo. Ti ha detto? Che ti ha detto? dobbiamo sentire la fanta politica di Giulietto Chiesa che da Mosca ci dice che ce l'aspetta. Te l'ho detto che sei un grande cialtrone. Ma veramente, ma chi ti dice il cervello? Ma sta ragionando su una cosa. Che ti dice il cervello? Che è un figlio di puttana che disonora la professione. Ah, è quello che ti ha dato il figlio di puttana. Hai sentito l'argomentare quello pacato? Quello che ti ha dato il figlio di puttana. L'argomentare pacato del, ma è stato, dell'inviato Chiesa. Com'è che è stato definito pure da Sallusti? Chiesa, da Sallusti, non mi ricordo. Fammi sentire. Sentiamo. Sallusti. Lui ha insultato me dicendo che io sono portavoce di un regime. Lui non ha letto mai niente. Abbiamo di ciò letto che le tue cronache entusiaste durante la mia carriera. Lui non sa nulla. Abbiamo letto le tue cronache entusiaste dell'Unione Sovietica. Lasciami parlare, stronzo. Lasciami parlare. Lasciami parlare. Però... No, in realtà è Chiesa a Sallusti, ci ha dato a te del figlio di puttana e a Chiesa dello stronzo. A Sallusti dello strozzo. No, è normale, abbiamo visto le tue cronache prezzolate da Russia. Normale. Vabbè, comunque, Giulietto Chiesa dice che sostanzialmente è un complotto della CIA, degli americani. Ah, ho capito. C'è tutta questa roba perché qui. Perché pare ci sia il suo amichetto Putin. Cioè, la CIA avrebbe tirato fuori anche il nome di Barbara D'Urso, capito? La CIA e Barbara D'Urso. È questo. Una cosa che mi ha colpito moltissimo è che tra i nomi fino ad ora usciti non c'è neanche un miliardario americano. Ops! Non c'è neanche uno dei grandi nomi che tutti invece conosciamo. I padroni del mondo, quelli che conosciamo, non ci sono. Non c'è neanche un Rothschild fino ad ora emerso. Non c'è neanche un Rockefeller. Non c'è neanche un Soros. Ma... E poi dice che è un'operazione anti-Putin, dice. Ma è veramente incredibile. Cioè, ha citato Rothschild e Soros. Ma io veramente, ma ci fa o ci è? Ma dove l'ha messo il cervello? Che è un coglione. Cioè, tu vuoi dire che è un coglione totale? No, è riduttivo. Cioè, quello coglione è riduttivo, purtroppo. Cioè, tu dici, si dovrebbero prendere i coglioni. Ma no, ma è riduttivo. Cioè, già dando questa definizione, lo riduci a una dimensione. Ma tu ti rendi conto? Vabbè, ma che cos'è allora? Un imbecille, un cretino? Ma non so, adesso compulso qualche insulto. Ma non lo so, ma è andato via. Ma ha lasciato il cervello, ha fatto rottamare il cervello, che ne so. Allora, questione Napoli, fermi tutti, questione Napoli. Allora, sì. Ragazzi, a me va bene tutto, la polemica feroce, la critica, gli attacchi. Ormai sono abbastanza abituato e me ne fotto totalmente. Certo, mi rompe i coglioni essere, come dire, in qualche modo monitorato dalla polizia, eccetera, eccetera, però va bene, me ne faccio una ragione, ci sono altri che sono messi molto, molto peggio di me. Però ti leggo un messaggio che mi è arrivato da un signore che si fa chiamare Marzio Mostarda, non so se sia lui. Mostarda. Pare che lavori. Sì, Marzio Mostarda, la magari è un nome finto. La uso per metterla sul bollito. Allora, che lavora nel mondo del brokeraggio, delle assicurazioni, il quale mi dice: presto te lo tagliamo il pisello. Vabbè, poi mi dice: coglione, devi morire, eccetera, eccetera, prendi i soldi dalla famiglia Agnelli. Stai zitto, ti consiglio di non farti vedere a Napoli, ti stanno preparando un bel piattino caldo, presto scoprirai cosa voglio dire, fai attenzione anche sul posto di lavoro, perché mi hanno detto che ci sono persone che presto ti incontreranno per farti gli auguri di San Giuseppe, che purtroppo per mancanza di tempo non ti hanno fatto una decina di giorni fa e quindi lo vogliono fare adesso, carogna, eccetera, eccetera. Amici della Digos, mettetevi al lavoro, in piccolo, quando avete 10 secondi di tempo, mettetevi al lavoro su un tizio che si chiama Marzio Mostarda, il quale dice che mi vogliono massacrare qui sotto. Gli amici di Napoli che mi danno del bastardo, devi morire, la tua famiglia fa schifo, il cancro, eccetera, semplicemente per aver espresso delle opinioni sul piagnisteo napoletano in occasione dell'ultima partita e delle vicende del campionato italiano. Ho il diritto di dire che c'è un piagnisteo, sì o no? Antonio da Bari, vai. Buonasera a tutti, grazie a te. Sto diventando dimmi Antonio, dimmi. Niente, appunto, se ci meravigliamo ancora di tutto quello che sta succedendo tra l'intervista di questa sera, che già se ne parla e non sappiamo ancora di che cosa dovranno parlare, se si parla di Schettino che scrive libri, di Corona che esce dal cast e viene subito ospitato in televisione. Vabbè Antonio, che cosa vuoi dire? Non ho capito. No, dico, non c'è più da meravigliarsi di nulla in questa società, quindi non capisco, non ho capito. Perché tutte queste ti fa schifo, urla ti fa schifo preventive. L'intervista a Rina, non ho capito. No, assolutamente no, è che fin tanto che non l'ascolto non mi sembra assurdo che ci sia gente che già protesta a priori. Va bene, grazie. Roberto Agrigento, vai. Finalmente, ciao Giuseppe, io volevo parlare con Parenzo, che è paladino dei Rom, perché a me è successo paladino, una cosa... No. Come no? Beh, insomma, dai, adesso paladino dei Rom. Sei abbastanza paladino dei Rom. Sono contro le discriminazioni stupide e generalizzate. No, stupide. Fammi finire di parlare. Io non mi sono chiamato, ma chiaramente voi eravate impegnati e non mi avete richiamato. Pronti. Allora, questi, io esco dal lavoro con un mio amico. Io ho un'autoritaria nuova. Sì. Questi non si fermano allo stop. Questi chi? Questi Rom. Questi Rom. In questi generale. Rom. Sì, questi. Vabbè, allora? E allora mi entrano con la macchina, proprio dallo sportello della macchina, mi fanno un danno all'incirca di 2.000 Sono dei criminali euro. Questi qui. Questi qui. Ascolta, in particolare. E meno male che erano a 50, penso. Scendono dalla macchina, fanno finta di niente, scusa una minchia. Gli dico, io chiamo i carabinieri. Allora, alla mia retta chiamano i carabinieri, mi dicono, no, non siamo in regola. Se non me ne fotto un cazzo. Mi fai l'assicurazione. Noi non avere l'assicurazione. Mi importa un cazzo. Nel frattempo, scendono altri tre belli grossi. Sì. Meno male che eravamo noi. Sono criminali, dai, basta. Non c'è molto da difendere, da dire, da realizzare. Allora? Ma sono dei criminali. Allora è finita. No, è finita, perché facevano se ne volevano andare. Io, meno male che ho tolto le chiavi della loro Mercedes. E che gli ho detto? O che mi pagate i danni subito, oppure vi strappo questi denti d'oro che avete tutti quanti. Allora è successa una cosa. Lui, quando ho capito questa cosa, che vabbè, dai, andiamo alla conclusione. Com'è finita questi Rom? La conclusione è finita. Siamo andati dal carrozziere e hanno tirato 3.500 euro in contanti. Hai capito? Questi chi sono? Questi bastardi. Ma ho capito, hai avuto un incidente. Adesso non è che ti hanno rubato. Ma dei criminali, se mi ammazzava. Se mi ammazzava, chi mi pagava? La mia famiglia. Ma vabbè, ma ti hanno minacciato di morte, Giuseppe, non ho capito. Non hanno assicurazione, non hanno niente. E non gli fanno niente alla polizia, lo sanno tutti. Beh, adesso che la polizia non faccia bambini. Niente. La polizia magari li ferma, gli fanno una multa perché non hanno l'assicurazione, no, questi la multa non la pagano. Non gli fanno niente, Giuseppe, non gli fanno niente. Niente. Hai capito? Io ma perché non gli fanno niente? Spiegami. Non lo so, ditemelo voi che parla Parenzo, ditemelo voi perché noi paghiamo la situazione. Ma Parenzo non ha mai preso i criminali. Lo sai perché, Roberto, non fanno niente a questi qua? Semplicemente perché li considerano, purtroppo, come succede nei campi Rom e come succede in diverse città, una specie di repubblica autonoma dei Rom, dove per quieto vivere, questa è l'Italia, purtroppo nessuno fa mai un cazzo, cioè nessuno fa mai nulla, nessuno entra nelle questioni, nessuno risolve cose concrete. Tanto se morivo il mio compagno, oppure io, non ce ne frega un cazzo a nessuno. Il tuo compagno? No, ma mio compagno, il mio. Io ne so, pensavo che eri omosessuale, pensavo che eri gay. Vabbè, ma che male c'è? Che male c'è? Voglio dire, quando siamo andati. Che ci sarebbe qualcosa di male essere gay, scusa, Roberto. No, assolutamente, io ho tanti amici gay, guarda. Sì, beh, si dice sempre così. No, ti ho detto, quando siamo andati al carrozziere, questo esce 3.500 euro in contanti. In contanti. Sì, lo so, Roberto, però questo succede. Ma che cazzo c'è di Italia siamo? Non lo so. Se questi ce li hanno i soldi. Ma certo che ce li hanno i soldi. Ma perché non pagano le tasse? Che cazzo di Stato siamo? Non ma lo è so. Tutto in nero. Vabbè, ma non è che sono solo i Rom in nero, però, amico mio. Ciao, Roberto, ciao. Cruciani, ma chi cazzo è il tuo parrucchiere? La Zanzara. Federico da Roma, vai! Ciao, buonasera Cruciani. Dimmi. Il grandissimo Parenzo. Ciao, sentite, vai. Io chiamo per prostata e eiaculazione. Però cerca di parlare meglio, dove stai? Dove mica sei? Uno studio medico. Dentro il sono parcheggiato, sono fermo, è mezz'ora che sto fermo e ho capito. Parlare devo farmi così. Ah, capito mio, però stai con l'auricolare, stai col via voce. Non sto con l'auricolare. Ma si sente male, si sente male. Dai, Federico, dimmi. Adesso come mi senti? Sono uscito. Vai, dimmi Federico, dimmi. Niente, io ho 57 anni. Sì. Mi sono fatto trattamenti autoerotici da quando avevo 14 anni. Sì, cioè, che vuol dire? Ci sono andato pure dallo psicologo per fermarli. Cioè, in che senso? E scusa, stai andando dallo psicologo? Pronto? Non ho capito, che si dice ho fatto trattamenti autoerotici da quando avevo 14 anni? Ho fatto le pippe. Ma quello l'ho capito, cioè ti masturbi da quando c'hai 14 anni, 14 più 57 fanno 43. Va bene, d'accordo, da 43 anni, una cosa abbastanza... E non avevi rilasciata una di giornata. Cioè tutti i giorni, vabbè, tutti i giorni praticamente per 37, per 30, che quanto parlo? 43 anni, per 43 anni tutti i giorni, siamo una media insomma che va, si può dire Parenzo, intorno alle, siamo al 20.000, 30.000 insomma, no? Adesso io questo Beh, un calcolo così a spanne, diciamo, un calcolo a spanne. E allora qual è il problema? Che da qualche anno la prostata, urino male, mi fanno... Mi vado a far visitare, fanno la faccetta, dice ma quanti anni c'hai? Ti devi curare, ti devi fare. E a che quando tu mi dici, oramai l'ha detto la zanzara, è come quando lo diceva il telegiornale. Beh, insomma, adesso la zanzara è vero, allora c'è qualcosa che non va con me. C'è una, allora tu stai dicendo, siccome prima ho detto che c'è una grande ricerca inglese che sostiene che basta avere 21 eiaculazioni al mese e c'è una possibilità, però, amico mio, della riduzione del 20% delle possibilità di prendersi la prostata, amico mio, tu rientri nel restante 80%, non so come dirti, hai avuto sfiga, che te devo fare? Tu dici, io ho avuto altro che 21 al mese, no? Molto di più, immagino, no? O sbaglio? Esatto. Sì, ma di amplessi quanti però, gli amplessi? Ecco, era questo che non mi tornava. È questo tanto. Che non ti torna, no? È questo che non esatto, ti torna. Perché cioè? Lui diceva trombate, non diceva fate delle No, quello dice eiaculazioni, quello dice lo studio inglese prestigioso, prestigioso, lui dice eiaculazioni. Tu capisci, se io mi faccio tante pippe, vuol dire che da qualche altro lato non va. Sì, tu dici che proprio niente nella tua vita, quella roba lì è andata male. Non è vero, ho avuto periodi di astinenza e periodi di grande, come si dice? Attività, di grande attività. Grande e questo che periodo è? Questo è di grande attività, però mi fa male lo stesso. Ma sei andato dal medico, che cosa ti hanno diagnosticato? Beh, dopo anni di psicologo, sai che mi ha detto lo psicologo, i soldi? Sai qual è? Proprio chiudendo all'osso? Se vuoi fare pippe, fattele. No, ma allora, ma non ho capito, ma il medico sulla prostata che ti ha detto? Il medico sulla prostata mi ha detto che ce l'ho ingrostata, che la minzione non è più, è un po' sofferente, quindi pasticche per pisciare bene. Anche Parenzo, però mi sembra che affronti questi problemi in maniera frequente, per cui chiedo scusa. È partecipe della tua sofferenza, insomma. Dicevi Davide? No, chiedo scusa, tutto benissimo alla radio della Confindustria, qui non si parla di economia, tutto meraviglioso. Hai ragione. La domanda banale, stupida, semplice, che faccio a lei e al amico dottor Giuseppe Cruciani è: perché per 7 minuti io devo sentirmi parlare questo signore che non so neanche da dove cazzo chiama, che ci parla della sua... Ma sei un grande che cosa che ti sto bastonando? Che ci parla in diretta radiofonica della sua masturbazione, amico mio. Ma io immagino, ma non l'imbarazzo di chi dei nostri editori, quello no, ma di chi della sua famiglia, dei suoi parenti più vicini, che dicono: mamma mia, ma hai sentito lo zio che ha fatto? Che ha detto lo zio? Alla Radio 24, dove? Alla Zanzara? Sì, che ha detto? Che si masturba 32.000 volte in un anno. Cioè, ma ti rendi conto? Tutta la vita quello, 32.000 volte. Scusami, il dato falsato, chiedo scusa. Lo fanno tutti. Ma tutti non telefonano in diretta a una radio mondiale come questa. Non lo fanno, non è normale. Ma si sentito in difficoltà, no? Ma si sente in difficoltà, sente in difficoltà. Lo stai bastonando. Uno che ha problemi, vada allo psicologo perché si fa tante pippe e lo bastoni. Vergognati. Ma guarda che incredibile, chiama, tra le altre cose. E lo strano sono io. Abbiamo parlato lo strano risulto io. Guarda che incredibile, guarda, adesso spacco tutto. Cioè, noi abbiamo parlato di Rina da Vespa. Benissimo, del figlio di Rina da Vespa. Un tema altissimo, però tu vai per strada, la gente non è che è preoccupata perché Rina se va o no da Vespa. La maggior parte delle persone, diciamo, non cambiano, cioè la vita non cambia domani mattina se Rina va da Vespa sì o no. È un tema così divertente, però la prostata, la masturbazione, i problemi concreti. Federico da Roma che chiama dicendo: io ho un problema, nonostante le eiaculazioni continue e sono le 19.53, nonostante le continue eiaculazioni, che chiama qua? Ho la prostata ingrossata. Dunque, oh, ecco. Giusto, Federico, o sbaglio? Giusto. Perché, tu dici perché chiama io qua? Io sono in difficoltà perché se lo dice la zanzara, cazzo, deve essere vero. No, ma adesso lasciamo perdere questo, la zanzara no, lo dice uno studio inglese. Senti, che io ho riportato. Una cosa importantissima. Dimmi, Federico, dimmi, avanti. È una cosa molto importante, perché la zanzara mi sta condizionando la vita. In che senso? Io sono stato questa fine settimana a una fiera molto importante in Umbria di allevamento di carne bovina. Questo è buono, questo è molto buono, eh? Questo è molto buono. Bisogna, gli allevamenti di carne bovina vanno rafforzati, vanno esaltati, ci devono essere i controlli, ma sono una delle grandi. Che lavoro c'è là dietro? Io sono amico di allevatori che fanno allevamento da vita. Ma adesso questo che c'entra con le pippe? Scusa, che c'entra con le pippe? Spiegami. Perché? Sono stato invitato lì, pranzi, cene dell'associazione di allevatori, eccetera, e io ridevo come uno scemo, perché davanti a tutto pensavo a te col salame in mano dietro della vetrina, e la gente mi faceva, ti diverti, io dicevo sì, però c'avevo Cruciani e Parenzo in testa, e ogni quando facevano spiegavano i quarti del bue, le cose, allora? Tipo di gassati. E intanto ti facevi pure una pipa, andavi dentro il bagno e ti facevi una pipa, magari. No, lì no. Vabbè, ciao Federico, ciao. Viva Goldrake, che ammazza i vegani. La zanzara. Carissimo Cruciani, vorrei informarti che un mio amico asserisce che da quando è diventato vegano, il pene gli è cresciuto di 2 centimetri. Che fa, lo intervistiamo? Alimentazione onnivora, allora io dico, no, io sarò libero di mangiarmi quello che voglio, sarò libero di mangiarmi quello che voglio, sapere che la carne mi fa male, sarò libero di farmi una bistecca di 4 dita. L'alimentazione onnivora fa male, ma vaffanculo. Oh, a proposito di Panama, voglio dire una cosa, oggi... La battuta più bella l'ho letta oggi, forse è sì. Come si chiama? Iddio. Non lo so. Su Vespa il plastico, e Rina. Questa volta il plastico lo porta lui, questa devo dire che è eccezionale. Cioè, sul figlio di Rina, questa volta non c'è problema, il plastico lo porta lui. Devo dire che stavolta Iddio numero uno. Iddio, per chi non lo sapesse, è un account Twitter, insomma, un portale. Insomma, questa è anche molto bella. I Le Pen sono anticapitalisti, nel senso che nascondono i capitali. Ora lo abbiamo capito. Vabbè, questo è banale. Si riferiscono alla famiglia Le Pen, che pare abbiano i soldini, Marine Le Pen. Comunque, voglio ricordarti, lo dice un ascoltatore giustamente, ma io è come se l'avessi detto prima. E poi non è detto fino che a prova reato, contraria, no. Fino a prova contraria. No, non è detto che averli non sia è reato, illegale avere conti o società offshore all'estero. Sì, basta denunziarli. Beh, certo, è chiaro. Ecco, cioè, fino a prova contraria non è illegale avere conti o società offshore all'estero. Poi se uno l'ha fatto per nascondere tesori pazzeschi o addirittura le tasse, è un altro discorso. Allora, mi hanno mandato un filmato di una signora molto animalista, molto vegana, che non mi ricordo come si chiama adesso, ma adesso la recupero, il nome lo recupero prontamente, caro padre. Di Lenge si chiama, la quale è nel dramma perché è morto un piccolo, è morto, uno dice, immagina, sente questo, no, io ho ricevuto un file audio, no, uno dice, ma cazzo, cioè, gli è morto un bambino. Piange, disperazione, eccetera, eccetera. Lo chiama addirittura Leonardo. Senti. Nonostante le tempestive cure, le tempestive aiuti da parte delle persone che dedicano tutte le loro giornate a questo nostro rifugio, il piccolo Leonardo non ce l'ha fatta. E uno dice, cazzo, è morto il piccolo Leonardo. Beh, oh, per carità, tutti preoccupati, condoglianze, un piccolo è morto, un bambino è morto. Senti, senti. Leonardo, nella sua breve vita, ha avuto la... la gioia di una carezza, di un bacio, di stare all'aria aperta, di fraternizzare con noi. E noi, nonostante questo, adesso ce ne sentiamo indubbiamente svuotati, perché forse ci sentivamo un po' i suoi genitori adottivi. Grande rispetto, perché uno può piangere, si può disperare per chiunque, anche per... Però uno immagina, dici, senti questa cosa, cazzo, è morto. Era un agnellino. Vabbè, no. Era un agnellino. Loro soffrono. No, per carità, però lascia poi la consiglia. Era un agnellino. Io non ho foto di Leonardo da mettere di fianco a me, ma sapete già la storia, probabilmente tanti di voi. Leonardo era un cucciolino di agnello che è stato con noi circa 3 settimane, poi è morto. E questo è il messaggio che voglio lasciare alle persone che li mangiano ancora. Cioè, noi ci dovremmo sentire in colpa. Poverina. Ci dovremmo sentire. No, per carità, ci dovremmo sentire in colpa, però, siccome vuole. Finché uno ha dolore per un agnellino morto, va benissimo. Ognuno può piangere per i motivi più disparati, va bene, non giudico. Però, se uno vuole dare un messaggio a quelli che li mangiano ancora, no. Cioè, noi ci dovremmo sentire in colpa perché mangiamo ancora dell'agnello. Non ci sentiamo in colpa. Non ci sentiamo in colpa per la morte degli agnellini. Non ci sentiamo in colpa. Stefano da Vicenza intanto. Stefano, vai, Stefano. Pronto? Dimmi Stefano, dimmi. Ciao. Sì, vai. Allora, aspetta che ho fatto tu. Vai. Ora intanto, stava parlando prima di prostata. Sì, sì, tumori. grande argomento, sì. Io ho qualche anno, pochi più di te, sì. Poche decine di mesi. Operato 6 o 7 mesi fa. Sei stato operato di prostata 7 mesi fa. Bene, un consulto prostata è molto buono qua in radio, Parenzo. Dovremmo istituirlo. Un consulto prostata, ottimo. Stefano, allora dimmi. Sì, 6 o 7 mesi fa, diciamo, operazione tutto sommato è andata bene, perché nel Veneto abbiamo una sanità ottima, sì. A livello nazionale, è andata bene. Europeo. Prendi appunti, Parenzo. È andata bene. È andata, sì, bene, no, puoi venire a Bassano del Grappa, te lo consiglio. Proprio. No, ma io sì, per adesso non ho problemi, amico mio. Magari fra poco, quando avrò problemi, sì, verrò a Bassano del Grappa. No, non voglio parlare di vegani, perché ho anche un lasciamo parente vegano che è un problema. Beh, addirittura adesso, perché... adesso non esageriamo, un parente vegano è un problema, no? Perché è un problema, scusami? Sì, quando vai fuori a mangiare con la famiglia veramente è un problema, cioè, devi trovare i posti dove c'hanno anche solo verdure, altrimenti... Vabbè, però uno non è che può, non è che uno si può regolare in base a questo, amico mio. No, comunque hai la mia solidarietà. Si adeguino loro, si adeguino loro. Perché con questi mi sembrano quelli dell'ISIS, sinceramente. Vabbè, ognuno può fare quello che vuole, ma lo può obbligare gli altri a non mangiare quello, bere e mangiare quello che vuole. Però, dunque, vabbè. Ti dicevo, sono appena uscito dal supermercato che c'è una concentrazione di donne mai finita. Quando 20 o 30 anni fa si andava in discoteca, ti ricordi? Adesso al supermercato c'è lì la concentrazione, però... E tu mi dicevi che bisogna farlo 21 volte al mese. Ma io non è che dicevo io, ragazzi, mi avete interpretato male, non è il mio consiglio. Cioè... Ormai sei un guru per no, questi... ma io ho detto semplicemente, ho detto semplicemente che c'è uno studio che dimostrerebbe naturalmente che eiaculando 21 volte al mese, non è specificato in che modo, ma magari sì e non lo so io, sì, diciamo diminuisce il rischio di prendersi di ammalarsi di prostata. Questo è il punto fondamentale. Invece, però io sono l'esempio vivente, l'essere vivente che contraddice questo studio, diciamo. Lo so. Tra donne e do yourself, insomma... Bello, do yourself, bello. Pure da me, come dice Pupo, da me. Alla quella Toscana. Roba lì, insomma, ragazzi... Hai sempre fatto un sacco di roba, diciamo la verità. Beh, sinceramente sì, fatto in via di prevenzione, diciamola così. Però in effetti, purtroppo... Prenditela con questi qua. pur essendo abbastanza giovane, con la prevenzione mi sono accorto che avevo sto problemino che lo so, speriamo ci sia risolto. Sono ancora sotto controllo, però auguri e grazie per averci messo a parte di questo. La moglie è informata di tutto questo? La moglie Madonna, lo sa benissimo. Si è preoccupata? Sarà anche gli amici saranno contenti? Contenta perché perlomeno la cintura un po' meno di una volta, diciamo, ecco. Ah, è contenta perché cosa? Qualche scusa? Qualche problemino te lo porta, in dubbio. Questo non è più il baobab di qualche mese fa. Il baobab? Il baobab. Lasciamo all'immaginazione, non è più il baobab. Lasciamo all'immaginazione. Dunque, è quasi contenta la moglie, no? Ma è interessante questo spaccato familiare. Pensa quanto sono contenti i suoi parenti. Ma che perché? Ma magari sono contenti che ma certo, magari sono contenti che una persona che... Mamma mia, sento cosa che ha fatto il mio parente l'altro giorno, cosa che ha fatto nel weekend? Ha telefonato a Radio 24 che ha parlato del baobab e roba e cose, mamma mia. Ciao amico mio, ciao. Più Parenzo, meno Cruciani. La Zanzara. E ci si diverte a bestia qui alla Zanzara, cari amici miei, 800 24 0024, oppure i vostri messaggi vocali su WhatsApp 393 71 71 701. Siamo veramente al top. Allora, caro Parenzo, ti presento un personaggio incredibile. Ruffini, un grande. Ruffini, il segretario del Safari Club International. Safari Club International. È un signore molto serio che si chiama Luca Bogarelli, ma soprattutto è un cacciatore di quelli non... Cioè, non è che caccia i tordi, cioè anche forse i fagiani, eccetera. Fa caccia grossa in Africa. Non tutto, ma i famosi Big Five. Com'è che si chiama, Bogarelli? Big Five, praticamente li ha fatti tutti tranne il rinoceronte, giusto? Quali sono i Big Five, Bogarelli? Buonasera, allora, innanzitutto. Buonasera anche a voi. Allora? Il rinoceronte, come ha detto lei, elefante, sì? Bufalo, cafro, leone e leopardo. Ma l'elefante, sì, l'elefante c'è, dunque elefante, leone, leopardo, bufalo... E il rinoceronte. E il rinoceronte. Quello che lei non ha fatto, non ha cacciato, è il rinoceronte, giusto? Esatto. Prima di tutto perché il rinoceronte nero, sì, è quello diciamo più interessante da un punto di vista venatorio, è protetto ovunque. Certo. Dunque non invece si può l'altro, sì, quello il rinoceronte bianco viene cacciato in aree chiuse, in farm, quindi insomma è una caccia diciamo molto poco sportiva dal mio punto di vista. Cioè non ti piace, insomma? No, non mi piace. È una caccia che non ti piace, troppo facile. No, troppo facile, ma insomma è un animale allevato e quindi non... Ha poco senso per chi ama la caccia. Non c'è brivido. Esatto, non c'è brivido. Allora, tu ti sei mai pentito di aver ucciso uno di questi animali? No, cioè, un elefante, no. Leone, leopardo e bufalo? No. Com'è cacciare un elefante, Bogarelli? Spiegami com'è. È molto, molto interessante, nel senso che... Beh, interessante, certo, per te naturalmente. No, è una sfida molto impegnativa con la natura, con questi animali maestosi, giganteschi, che non hanno paura di nulla. Ma dove bisogna colpirli? Solitamente ci sono due tiri fondamentali che sono comunque tiri al cervello, cioè quello laterale e quello frontale, a seconda di dove si affronta l'animale. Sì. E comunque c'è anche un tiro che si fa in area cardiopolmonare. Ecco, volevo sottolineare che una vera caccia, un vero cacciatore di elefanti va a cacciare, a sparare un elefante a non più di 10-15 metri. Cioè si arriva fino a 10-15 metri. Vabbè, però, esatto. Però non c'è. Bisogna sentire l'odore dell'elefante. Sentire l'odore dell'elefante. Sì, però scusami, è un po' impressionante per me però fare sta caccia. Non ho capito perché è troppo facile da lontano. Ah, perché non si sente l'elefante vicino, dici, col mirino, con... Sì, esatto, cioè non c'è nessun rischio, non c'è... Vabbè, che rischio c'è, però non è che si corre il rischio, dai, con l'elefante a cacciare. Sì, si corre il rischio. Sono morti diversi cacciatori professionisti, diversi cacciatori, quindi però non mi dire che è una sfida alla pari. No, non l'ho mai sostenuto, è assolutamente impari, noi siamo avvantaggiati, però sa, c'è l'imprevisto e ma c'è forse questo che ci attira, sì, l'idea che ci sia l'imprevisto che può capitare. Il brivido qual è, Luca? Non sapevo se potesse cacciare l'elefante. Sì, come no, io lo so benissimo, ma voglia, come no? Quanto ma anzi, se poi mi lasciate spiegare due cosette vi spiego perché è così importante cacciare l'elefante. Ah, addirittura tu sostieni che è importante cacciarlo, no? Dimmelo subito, questo, dimmi subito perché. Sì, no, è assolutamente importante perché il vero guaio dell'Africa è l'antropizzazione. Mm. C'è l'uomo continua ad aumentare, continua a portare via spazio agli animali selvatici, assolutamente in maniera assolutamente giustificata. E allora cosa succede? In quella tal area possono starci solo, per sopravvivere in maniera corretta, un tot numero di animali. Allora cosa succede? I governi decidono di fare il cosiddetto culling, che è diciamo l'uccisione di un intero branco. Poi la carne viene distribuita alle popolazioni locali, sì, però senza nessun vantaggio economico. Allora, cosa hanno deciso i governi delle nazioni? Cioè, se non si ammazzano gli animali, che succede? Prego? Se non si ammazzano gli animali? Entrano in conflitto con gli uomini, distruggono le coltivazioni, distruggono i villaggi. Cioè, però è utile all'uomo allora l'uccisione degli animali da questo punto di vista? Certo, è utile all'uomo perché l'uomo è causa della... con questa antropizzazione, diciamo, è causa della sottrazione di territorio selvaggio agli animali. Allora, le dicevo, i governi cosa fanno? Vendono la possibilità di uccidere gli animali a cacciatori professionisti, outfitter, che organizzano... Sì. Ma tu quanto hai speso in tutto per cacciare? Spiega. Cose che non si dicono. No, ma in generale, per la caccia grossa. Ci sono cacce che partono da 3.000 euro fino all'infinito. Cioè, per cacciare un elefante, partecipare a una battuta di caccia di elefante, quanto costa? Mamma mia. Qualche decina di migliaia di dollari. È così. 10.000 dollari. Io conosco degli italiani che vanno spessissimo. Ma andate in una bella spa, ma fate qualcosa. Ma ascolta, ma se uno è appassionato di caccia grossa, ma perché non può fare la caccia grossa? Sì, non ho capito. Per carità, è il mio parere, ho detto andate in una spa. Sentite, va sottolineato anche questo, che una grossa fetta di quello che si spende va al Game Department, che è diciamo la forestale africana, che sì, a parte il fatto che c'è una corruzione là incredibile, comunque sì, non si sa i soldi dove vanno, non si sa, ma comunque guardi che parecchi ne arrivano sul territorio perché devono pagare. E com'è cacciare a spendere 10.000 euro per cacciare un povero elefante? Ma scusa, dai, ma un povero elefante, un elefante basta, no, il povero elefante, un elefante perché c'è l'adrenalina, lei prova da un brivido quando l'elefante si abbatte. Lei ha mai abbattuto un elefante? Sì, certo. Quanti ne ha ammazzati gli elefanti? Un paio. Che brivido ha provato quando si è accasciato? Sì. Un grande brivido? Sì, un grande brivido, ma volevo sottolineare... Una grande emozione. Aspetti che c'è il traffico, poi torno con lei. Luca Bogarelli fa caccia grossa in Africa e avete sentito, dopo quello che succede nei territori africani, da un certo punto di vista questa caccia è pure utile. Ora, che sia utile o no, non lo so, non è importante secondo me. Solo che, qual è il problema? Non capisco. Altro che il traffico, qua ci serve sapere del traffico di stupefacenti, che non si trova più l'erba buena. L'erba buena. La Zanzara. Luciani, anche da Karlsruhe in Germania, a un meeting di una multinazionale, l'unica cosa che conta è correre in albergo, scaricarsi il podcast e ascoltarsi La Zanzara. Stiamo parlando con un grande cacciatore. Caccia grossa in Africa, Luca Bogarelli. In tutto hai fatto un conto, Luca, di quanti, ti do del tuo, di quanti capi, di quanti capi hai in tutto? Vedo due elefanti, leoni, quanti ne hai cacciati? Uno. Un leone, leopardi? Uno. Leopardo, bellissimo, il leopardo. Stupendo. Stupendo il leopardo. E poi il bufalo. Quanti bufali? Giacomo Leopardi. Quanti bufali? Bufali una decina. Ah, perché bufali è più semplice? Sì, Sì, no, è sempre un animale molto pericoloso, però diciamo che è più semplice. È più semplice. Comunque quello è molto adrenalinico. Quello più pericoloso qual è? Il leopardo? Elefante, elefante. L'elefante è più pericoloso. Sì. Senti, ma quelli che si portano dietro dei cimeli, no? Che ne so, le teste, le pelli, tu ti sei mai portato dietro qualcosa o no? Sì, sì, ho qualcosa. Una testa che c'hai? Che mi permette di tenere in casa. Perché tua moglie non è d'accordo, dici, con questa roba qua? Ma che cos'è? Qual è la passione? Che uno, ma scusa, che uno si mette in casa la testa di un leone? Ma certo, ma se uno è appassionato di caccia al leone, certo, tu sei appassionato di arte contemporanea, hai qualche opera d'arte a casa? Hai qualche opera d'arte a casa? Ma qualcosa, ciò, certo, ma non una testa di leone. Ma il adesso signore, però, il signore. Non la testa di un leone, ma ragazzi, ma su. Le opere di arte contemporanea costano molto di più di un leone. Esatto, tra l'altro. No, invece Luca Bonarelli, senza fare del male a nessuno, uccidendo degli animali, certo, però secondo le regole previste. Io non sono un animalista, lo sai, mangio la carne. Però la caccia grossa non ti piace, ipocrita, no, ipocrisia, no. Ipocrisia pura, ipocrisia. Mi piace la caccia alla volpe, invece. Vabbè, ma ho capito, ma adesso che differenza c'è? È molto più crudele la caccia alla volpe. Assolutamente molto più crudele. A cavallo, perché più crudele? È più crudele perché se la sbranano i cani, invece di solito con un colpo solo si pone fine alla... Ecco, il leopardo, hai cacciato un solo leopardo, vero? Sì, sì. Come è stata la caccia? Ma lo sono posto come proprio come limite, felini uno solo, basta. Ecco, ma il leopardo, com'è stato cacciare un leopardo? Il leopardo si caccia all'imbrunire, quando arriva, si mette un'esca su una pianta e quando arriva si cerca di sorprenderlo appunto mentre mangia l'esca, mentre invece il leone l'ho cacciato all'incontro, ci siamo guardati per un attimo negli occhi. Ah, vi siete guardati negli occhi, a quanti metri era il leone? Il leone è una quindicina. 15 metri, vi siete Stavo guardati? Stavo mangiando una zebra, ho visto una zebra morta in mezzo a una grande piana, sono andato a controllare che cosa fosse successo e dietro la zebra c'era il leone, ci siamo guardati. Con leone. C'è Mauro Corona che mi scrive che cagata è come Mauro Corona lo conosce, lo scrittore Luca, sì, no? Sì, sì. Che cagata è come sparare a un palazzo, cacciatoruncoli. Beh, lui dice che è come sparare a un palazzo. A sparare un elefante? Sì, più o meno, adesso si riferisce all'elefante, credo, come sparare a un palazzo. Certamente è molto più grande dei camosci a cui spara lui. Mauro, che spara i camosci? Boh, sì, forse spara i camosci, non lo so, spara no? Ne parla io non capisco, anche però nei suoi libri, quindi. La difficoltà qual è di sparare a un elefante? Però questo non lo capisco, tu dici è pericoloso, ma è pericoloso, ragazzi, di che? Che succede con l'elefante? Cioè, l'elefante è un animale molto aggressivo, per colpa dell'uomo. Cioè, avvicinarsi a 10 metri a un elefante, non è come dirlo. Una volta che tu sei arrivato a 10 metri, non è ammaestrato, naturalmente, cioè non, esatto. Non è sedato né ammaestrato, magari comunque non è abituato. È successo al povero Tarabini qualche anno fa, che era il proprietario di Blue Marine, mi sembra, una di queste aziende così, che è stato ucciso, poveretto, da un elefante. Tu lo faresti porteresti quanti figli hai? Uno, sì, l'ho già portato con me, è venuto diverse volte. Ha sparato? Quanti anni ha suo figlio? Mio figlio adesso ne ha 28. Dunque può sparare tranquillamente, ha sparato tranquillamente anche lui. Ha la licenza di caccia al porto d'armi. Vedi, si tramanda di padre in figlio la caccia grossa, anche la caccia grossa in Africa. Cioè, Luca Bogarelli è l'esempio classico delle persone che sono odiate dal mondo animalista. Ti ricordi cosa è successo? Ma ricevi minacce pure come... Diciamo di sì, insomma, più o meno, soprattutto su Facebook, via internet, qualche minaccia. Certo, Safari Club International. Ti ricordi quando c'è stato quest'estate il caso di Cecil, no? Che era tutta una farsa poi alla fine, perché quel poveraccio di dentista, se non sbaglio, di odontoiatra dell'Arkansas, di non so che posto, in realtà cacciava in maniera regolare, non era un bracconiere. Assolutamente regolare. È stato il povero Cecil che ha sbagliato, è uscito dal parco. Ecco, tu per esempio sei pieno di foto, no? C'hai foto in casa tu con il leone, eccetera, eccetera. Assolutamente. Cioè, tu non hai nessuna impressione, pur avendo, ripeto, due elefanti, un leone, un leopardo e diversi bufali, non provi nessun rimorso. No, non provo rimorso perché, allora, innanzitutto io vivo la caccia come un fatto culturale, non solo come un momento. Sì. Ami gli animali? Amo moltissimo gli animali. Volevo sottolineare una cosa, se me lo sì, lasciate dimmi, fare. Dimmi. Sapete che il Safari Club International non è solo deputato alla tutela dei diritti del cacciatore, ma è attivissimo in programmi di conservazione, in programmi umanitari. In 20 anni il Safari Club, non quello italiano, quello generale che è nato in America negli anni 70, ha speso più di 350 milioni di dollari in cose di conservazione, di cose umanitarie. Vabbè. Insomma. Luca, comunque, quando si guarda negli occhi un leone, qual è che cos'è che si prova? Vabbè, ti senti dei brividi sulla schiena. Brividi sulla schiena. E poi quando, esatto, il leone crepa? Anche. Anche. Ti, ciao, rilassi un attimo perché ti rilassi. L'hai fatta. Ma tu ovviamente deve essere un colpo solo, no? Sì, è la cosa migliore. Dov'è il leone? Dove si colpisce? In fronte? Sì, no, sulla spalla. Dietro la spalla, perché c'è l'area. Quanto ci mette a morire, scusa, povero leone? Subito. Subito. Parenzo, sì, subito. Ciao Luca, ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie, ciao, a voi. Ciao, ciao. Saluto. Arrivederci. Alessandro da Padova, vai Alessandro, vai. Ehi, hey, ciao. Ciao, ciao, Ale. Ciao. Dimmi, dimmi. Ascoltami, ci siamo sentiti oggi su Facebook, io e te. Sì. Per parlare dell'intervista a Emilio Fede su Cecchi Paone. Sì, sì. Mm. Ah, sì, quella, guarda, che mi hanno accusato di quella frase omofoba, diciamo. Guarda, no, ti dico la verità, mi spiace di aver usato un tono forte e non ti accuso minimamente di omofobia, anzi. Però credo che in questo caso mi è sembrato stupido impostare l'intervista in quel modo, perché comunque un personaggio come Emilio Fede, alla fine l'omofobia la spara fuori anche se non gliela metti in bocca. No, guarda, allora la cosa molto semplice è questa. Ieri è andato pure su Blob, mi hanno detto, eccetera. Però io ho semplicemente detto una cosa che dico sempre a Cecchi Paone, cioè che capavone, eccetera. E ho detto, beh, hanno messo un omosessuale al posto tuo. Cecchi Paone ha detto anche che capavone. È un modo un po' per tenere bordone a Fede. Ma è ovvio che, cioè, è una tecnica, ragazzi, però non è che bisogna dire tutto nella vita. Cioè, è una tecnica, no, diciamo. No, ho capito. Ma non c'è voi... la frase omofoba, il messaggio. Saggero e altri giornali, la frase omofoba di Cruciani, ma ragazzi, ma datevi una calmata, ciao Alessandro, no, ciao. Su questo sono d'accordo, ciao. Cruciani, lavati zozzone. Banca Mediolanum, costruite intorno a te, vi presenta La Zanzara. Ma che cosa denunci dai Cruciani? Stai diventando peggio di Parenzo. Non riesci a difenderti senza denunciare le persone. Solo perché hai soldi devi denunciare persone. Sei proprio un pezzo di stronzo. Amico mio, se uno mi dà del pedofilo come quel cretino di Vassallo, là come si chiama, che devo fare? Cioè, a me possono dirmi di tutto, però quando uno va a colpire certe cose, ovviamente non false, ma inesistenti di più. Però siccome le cose vengono dette, poi uno in qualche modo si deve difendere. Allora, l'amico Borghezio, amico insomma, Borghezio rinviato a giudizio per una frase detta alla Zanzara sulla Chienghe. Adesso io, va bene tutto, però se uno dice, se fa una, no, una battuta, ha tolto lavoro agli italiani, per questo è stato rinviato a giudizio, per una frase detta qua, Parenzo, ti pare normale a te? Cioè, ti pare normale? Ma sai, io ti dico che la magistratura faccia idee fondate sull'odio razziale ed etnico, perché sì, ha detto... Sì, tu sai, io sono molto sensibile a questo reato che tu vorresti, allora, abolire. No, aveva detto, tra le altre, cose, gli africani sono africani e appartengono a un'etnia molto diversa dalla nostra. Appunto. Questo ha detto. Ha detto... questo sappiamo, è certo. No, ma questo è... Ti pare bello. È il Borghezio pensiero. Poi ha detto anche, sì, certo, per fare il lavoro, per fare il lavoro che fa... Ha tolto il lavoro ad altri italiani, questo ha detto. Comunque, Borghezione, sentiamo, vai, Borghezione. Lei dice, insomma, sostanzialmente, chi è nato in Congo non può fare il ministro in Italia, questo dice Borghezio. No, chi è nato in Congo e non ha alcuna preparazione, faccia, vabbè, quel che deve fare. Vabbè. Gli abbiamo dato un posto in un ASL che evidentemente è stato tolto a qualche medico italiano. Ma no! Buon per lei. Paolo da Roma intanto. Paolo, vai Paolo. Eccoci. Dai, buonasera. Uno non è che può finire in tribunale perché dice che ha tolto il posto. Vabbè, ma per carità, poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, assolutamente. Paolo, dimmi. Eccomi, buonasera a tutti. Ma con tante gradette Borghezio, proprio per questo rimandarlo a giudizio mi sembra Effettivamente ne ha detti di tutti i colori, anche sulla Chieng. Ha fatto una cosa, dice, ha tolto il lavoro a un altro italiano, lui che veniva dal Congo come infermiera, non so come. Sì, è quasi comico questo. Vabbè, allora. Allora, vi volevo dire velocissimamente una cosa. Io sono un romano, nato a Roma, vissuto a Roma, avevo un'attività commerciale. Quattro anni fa, non riuscendo più a mettere appresso il giorno con la sera, ho chiuso il locale perché venderlo mi sembrava di dare una truffa a qualcuno perché non era... Allora? E mi sono trasferito a Panama. Abiti a Panama in pratica. Esattamente. Adesso da romano sono in vacanza a Roma, proprio davanti al Colosseo. Allora, volevo fare una piccolissima precisazione, perché tutti quelli che evadono i soldi, che li portano di nascosto da altre parti, per carità, va tutto malissimo, è tutto sbagliato. La mia considerazione è questa: innanzitutto, come mi hai fatto notare tu qualche anno fa, è il sistema capitalistico che, tra virgolette, prevede questo. Voglio dire, i capitali vanno dove il denaro costa meno, insomma, no? Dove non si pagano le tasse, per cui i paradisi fiscali, queste aree qui esisteranno sempre, è evidente. Queste aree qui esisteranno sempre, creerà uno scandalo. E poi volevo dire una cosa: la cosa che mi lascia più contraddetto è il fatto dello scandalo dei politici italiani che continuano sempre, di qualsiasi razza, colore e direzione, continuano sempre a proclamare la loro lotta contro l'evasione. Volevo far presente una piccola cosa che probabilmente è sfuggita. A marzo del 2015 lo Stato italiano doveva ratificare il concordato di interscambio. Sì, però amico mio, non la mettiamo troppo complicata. Cosa vuoi dire? Ok, voglio dire che un anno fa lo Stato italiano se ne è fregato completamente di avere le informazioni bancarie dalla nazione Panama. Doveva firmare solo un contratto che era stato stipulato tra le due nazioni per avere un'informazione reciproca sulle banche, sui conti correnti bancari, e lo Stato italiano magicamente si è scordato di firmarlo. Verificheremo. Ciao. È ritornato in televisione Paolo Barnard. Paolo, che cazzo di fine avevi fatto? Paolo, ciao, ho abbandonato gli italiani perché non ne vale la pena. Addirittura. Adesso ti metto. Ciao, saluto il piccione. Adesso ti metto. Chi è il piccione? Parenzo. Non sentivo la mancanza di questo miserabile. Vediamo se mi fai parlare. Prima cosa, i paradisi fiscali sono sovrastimati, non sono un danno per l'economia, anzi probabilmente migliorano l'economia. L'evasione fiscale non ha un senso per seguire un economista. No, ma spiegami perché non finanziano lo Stato, stai buono, è la seconda bomba che ti metto lì, è che ci meritiamo gli attacchi dell'ISIS. Vediamo da dove comincia. Allora comincia, no, è interessante. È la seconda bomba che ti metto lì. No, però scusa, mi fai parlare con Barnard adesso? Fammi parlare con Barnard, poi attacchi, fai quello che vuoi. Ha detto una cosa molto interessante e controcorrente che voglio esaminare, questa questione dei paradisi fiscali. Perché secondo te aiutano in qualche modo l'economia? Perché i soldi che vanno nei paradisi fiscali non stanno al sole ad abbronzarsi, vengono riciclati in economia reale e ritornano indietro. Per esempio il fatto che da Panama hanno investito in quasi 2 miliardi di sterline in appartamenti a Londra, sono operai che lavorano, economia reale che viene creata, e poi sono tasse che si pagano perché pagano l'IMU anche loro, quindi alla fine i capitali rientrano nei paesi, rientrano nelle economie e non sottraggono niente e che sta, perché le tasse non servono a pagare il finanziamento dello Stato, questo lo dico da 100 anni, per cui tu puoi esportare quello che vuoi, evadere quello che ti pare e non togli niente al potere dello Stato di finanziarsi. Però scusami un attimo Paolo, spiegami una cosa, tutta questa roba qui che cos'è, una fuffa? Addirittura Barbara D'Urso che c'ha un conto, amici di Putin eccetera, come la vedi sta roba qua? L'ho detto, sono capitali che rientrano nell'economia. No, ma ho capito, reale. Ma come allora, la vedi? La soluzione è questa, sto a sentire, ti propongo la soluzione. La soluzione è questa, storia delle tasse ci stanno ammassando. Allora, la tassazione non finanzia lo Stato, perché lo Stato spende per primo. Allora, cosa bisogna fare per eliminare i paradisi fiscali? Bisogna semplicemente applicare una tassazione aliquota zero fino ai 25.000 euro lordi all'anno. Zero, nessuno paga le tasse. Che è la proposta di Trump in America. E non mi piace Trump, ma è una proposta molto buona. Seconda cosa, da 25.000 euro in su tassi al massimo al 15%, tutti anche il miliardario a 15%. Come in Russia, quello che vuole Salvini, è quello che vuole Salvini. Amnistia totale e completa. Se no la minchiata non è completa, fa finire. Paradisi fiscali. Ma questa è buona però. Totale, buono, fa completa, a patto che il rientro del capitale venga investito all'80% in economia reale e 20% economia speculativa. Fai quel cazzo che ti pare con gli hedge fund. Questa è buona però, questa è buona. Capito? L'altra bombetta, l'altra bombetta, la seconda me la sono scordata già. Qual era la seconda? Ci meritiamo gli attacchi dell'ISIS. Ah, perché ci, ma come dai, ci meritiamo gli attacchi dell'ISIS, Paolo, dai. Perché? Questo, allora, dopo una certa ora qua beve questo. Vogliamo dire un po' di cose? No, ma non ci meritiamo, ci meritiamo l'ISIS, dai. No, sta a sentire, gli americani hanno ammazzato 4.700 civili innocenti. Mamma mia, in mamma sei anni di attacco con i drones, 4.700 per uccidere 41 sospetti, neanche, tra l'altro, così, sospetti, hanno ammazzato 1.147 civili. Per Ayman al-Zawahiri di Al-Qaeda hanno ammazzato 79 bambini in un solo strike. E dunque? Allora, se queste robe succedessero, so, fa conto, per beccare un mafioso tu fai saltare per aria un matrimonio, ammazzi 149 persone, fra l'altro cosa che è successa in Afghanistan, il tronco della sposa l'hanno trovato su un albero che bruciava. Ecco, gli arabi queste cose le vedono da anni, le vedono da decenni, va bene? Mamma okay? Mia. Si incazzano, vengono qua, ci fanno saltare per aria in 100, in 50, in 29... 4.700 innocenti uccisi. Dunque, questa qua è la tesi di Massimo, è la tesi di Massimo Fini, che abbiamo ascoltato qualche settimana fa. Per cui allora, noi quando questi si incazzano e vengono qui, ce lo meritiamo. Ma scusa, ma dobbiamo piantare come fai a sostenere, però, come hai detto a Quinta Colonna, e sei incazzato pure il professor De Debbio, che Israele è il più grande stato terrorista del mondo. Adesso dai, Paolo, su. Israele? Eh beh, guarda, l'ha detto Albert Einstein. Ma che cosa stai dicendo? Ma sei un somaro, ma cosa stai dicendo? Cosa vai a citare Albert Einstein? Somaro d'un somaro. Aspetta, New York Times dicembre 1948. Senti, ma che c'entra questo nel 48? Non c'entra nulla. Leggimelo avanti, leggimelo. Però io voglio sapere adesso, non nel 48. Perché tu dici che adesso? Se i nostri sogni per Israele devono finire nel fumo delle pistole, degli assassini, e i nostri sforzi per il futuro di Israele devono produrre un gruppo di delinquenti sionisti degni della Germania nazista, molti come me dovranno riconsiderare le posizioni tenute così lungo. Senti cosa dice. Cioè, peggio del nazismo, secondo te? Israele è peggio del nazismo, secondo te? No, secondo te? Cita cose decontestualizzate senza sapere. Citi cose che non sai, non conosci neanche la storia di Israele, non conosci niente, l'Irgun, ma non sai un cazzo, ma sei, ma sta buono niente, ma non sai niente della storia di Israele. Vabbè, ok, adesso le citazioni, scusami. Abba, ebba, non sa neanche chi ricorda regimi che né io né il signor Begin oseremmo citare. Vabbè, hai fatto le citazioni. Era un eroe, Begin, un eroe. Un ministro di Israele. Però, ho capito, secondo te si può paragonare, l'ha detto Gideon Levy, l'ha detto okay. Si può paragonare al nazismo Israele oggi? Dai, ma stai scherzando? Sì, ma scusami, peggio. Ma dico, riporta le dichiarazioni dell'ex capo dello che dice che bisogna applicare sui palestinesi le tecniche che hanno applicato su di noi nel ghetto di Varsavia. È un comportamento neonazista. Cioè, oggi il comportamento di Israele è un comportamento neonazista. Fermate sto matto, ragazzi. L'ora della Ananna, dai. Il tempo è passato, Keynes. Dai, vai Ananna, su, forza, avanti, vai a dormire perché dopo un po'. Parenzo, è Parenzo. Vai, Topolino Barnard, sull'economista di Topolini. Non si può dire. L'economista di Topolini può tornare a Ananna, forza. Non si può dire che Israele si comporta come il nazismo. Torna a dormire, torna con i carti. Il più grande stato terrorista del mondo. Dei nomi eminenti. A parte che hai citato il passato, cioè non è che hai citato il presente. C'era un grande dibattito, ma non mi metti neanche a discutere. No, non sto idiota, ma vabbè, Paolo, ciao. Perché diceva ciao, il grande Begin, ma stiamo scherzando. Francesco da Latina, vai. Buonasera. Dimmi. Intanto, Cruciani, ti volevo chiedere come mai ti ostini a invitare ancora questi pseudo ospiti che più o meno farneticano. Cioè, hai cominciato con il cacciatore, proseguendo per Paolo Tavernello. Ma perché il cacciatore che ti ha fatto? Fammi finire, te lo spiego. Poi hai continuato con Paolo Tavernello Barnard, perché credo che l'unica spiegazione sia che sia, che sia pieno di alcol, perché è l'unica. Bravo, bravo. Ma guarda che l'idea sbagliata che Israele sia uno stato terrorista non è che è solo di Barnard, cioè, no, l'idea sbagliata non è solo Barnard, sbagliata, è l'idea sbagliata di parlare, secondo me, perché dovrebbe soltanto tacere. E mi ricollego a quello che ho detto prima sul cacciatore, che ormai tu inviti personaggi che debbano solamente fare notizie, è chiaro, l'hai cominciato con gli animalisti. Vabbè, Francesco, allora a parte queste cose, che c'entra adesso? No, ti volevo invitare tutti i signori frustrati come il cacciatore che ma non è frustrato, quello fa il cacciatore, non mi pare frustrato. Fammi perché finire, è frustrato? Perché ha parlato di cultura e di caccia come attività, certo, culturale, assolutamente, ha parlato di assolutamente. Caccia per ridurre il numero. Allora faccia una cosa sociale, riduca il numero dei terroristi, imbracci il fucile e se ne vada in Siria, dove anche qualcuno ma può che sparare c'entra, a lui. Dai, ma su, che c'entra? Ma dai, che c'entra? Su, non ma c'entra non nulla. Ma non è una spiegazione razionale, secondo te, che si utilizzino pallottole per sparare a qualcuno che vorrebbe sparare a noi invece di sparare animali innocenti? Vabbè, maestro, non è che innocenti indifesi, sono animali e ogni tanto si cacciano anche gli animali, amico mio. Arrenditi di fronte a questa cosa, non si estingueranno né le... Beh, allora io vorrei cacciare i cacciatori, facciamo una legge per cacciare i cacciatori. Sì, ma è proibito, è proibito, è proibito. Però è proibito, ma è proibito. È un essere senziente che abbraccia un fucile. Dai, questo essere senziente. 10.000 euro per sparare a un elefante, Cruciani, dai. Anche tu, io penso che anche tu nel, no, ma io non lo faccio perché non mi piace. Su. La piccolezza è un cazzo, ma non ripeto, io non è questione di 10.000 o 20.000, io ritengo la caccia grossa, come le altre forme di caccia, assolutamente legittima, con le sue regole, le sue modalità, eccetera eccetera. Qual è? Non capisco francamente qual è il problema. Ma non è una caccia finalizzata poi a mangiare, no, è una caccia sportiva, è una caccia sportiva, ma è una caccia... l'adrenalina, sport, il divertimento, ho capito, c'è anche questo nel mondo, non si può interrompere, ma questa roba. Ma vuoi sapere che adrenalina ci può essere quando un terrorista ti punta un fucile e tu ti difendi e contrattacchi e gli spari? Gli animali sono anche al servizio dell'uomo, punto e basta. Mentana, non fermo, è sport, dai, Mentana sì. Con sulla vicenda Rina. Avanti. L'intervista al figlio di Rina viene effettuata soltanto perché il figlio di Rina ha un libro in uscita. Questo si chiama in un altro modo, non è giornalismo verità. Poi, secondo noi, tutto ci sta dentro la televisione. Il problema è quando succede con i soldi che vengono imposti sotto forma di canone nella tassazione, in questo caso in bolletta. Allora, Mentana mette insieme diverse cose che non c'entrano una mazza, devo dire la verità, cioè io ho grande stima di Mentana, ma non c'entrano una mazza. Mette insieme la marchetta. No, non c'entra niente, non c'è, no, ma non è una marchetta, che cazzo dici? Ha un libro? Non dire cazzate, dice, si chiama, non dice, dire cazzate, dice, si è chiama una cazzata, modo, la marchetta, bisogna vedere se sarà una marchetta. No, lui dice, no. Intervistare una persona con la scusa del libro lo fanno tutti, è normale che si faccia, e non è una marchetta. Quindi lui dice senza ipocrisia. Ma perché no? Io so benissimo che tu sei contrario a questa cosa che ha detto Mentana e devi avere il coraggio, no, di dirlo. Mentana ha detto una stupidaggine, ha detto una enorme stupidaggine. Perché no, io ho detto un'altra cosa, dico che lui ha ragione quando dice in televisione vale tutto, perché infatti la siccome non è un ipocrita, lui dice anzi, non è giornalismo, no, l'intervista che si basa sul libro è una cazzata, è una cazzata, intrattenimento, ma non che dire minchiate, è una cazzata, cosa. È un'intervista figlia di può essere intrattenimento, può essere ascolto, e io giustifico l'ascolto, io ha detto una minchiata, è giornalismo, intervista è figlio di Rina, poi bisogna vedere come lo fa lui senza, beh, certo, senza aver visto l'intervista, dà un giudizio su Vespa su un'intervista che secondo lui non è giornalismo, sbagliato, e seconda cosa sbagliata è mischiare la questione della bolletta, nel contenitore, la questione televisivo ci sta tutto, la questione della bolletta e poi eccetera, soldi del canone, non c'entra una mazza, non questa cosa qui con l'intervista, il servizio pubblico dice può fare una roba così, è servizio pubblico, dice di no, domanda. Secondo lui dice di no, secondo lui no, ma è una legittima ma, la domanda, ma che cazzo, ma... ci sentiamo domani, dai, ciao ciao ciao. Libero salame in libero stato, libero salame in libero stato. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lo so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. La passione si sente.